Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta su Radio Città Fujiko 103.1. Chi vi parla come sempre per Mighty FM è Claudia Mighty Mau. Venerdì scorso non siamo andati in onda per diciamo esigenze della rete, che avevano una diretta da un locale. Noi abbiamo gentilmente ceduto il nostro posto, anche perché siamo un po' le ultime arrivate, ma stasera invece siamo tornati per parlare di una rassegna musicale di concerti di cui parliamo dalla 10ª edizione. Quest'anno è la 14ª edizione, quindi per il 5º anno, che si svolge a Sesto Aregena in provincia di Pordenone, diciamo in linea retta un 20-28 km forse da Porto Gruaro. Si chiama Sexto Unplugged. Per chi non avesse mai saputo parlare e casualmente si trovasse all'ascolto, alla fine di questa trasmissione non potrà dire di non saperne niente, ma anzi piuttosto di saperne tutto. E partiamo con la prima data in cartellone, che è quella del 2 luglio, e iniziamo con un nome di tutto rispetto conosciuto urbi e torbi, ovvero Billy Corgan. Inconfondibile quella di Billy Corgan, in questo caso di William Patrick Corgan, in quanto questo pezzo Processional è tratto da suo album solista, il secondo, uscito nel 2017 dal titolo Ojilala, e che appunto è firmato da col suo nome completo. D'altra parte è nato il 17 marzo, quindi il secondo nome Patrick era quasi insomma obbligatorio. Made for this master, who is the dawn? Won't you bury me? Come on now, bury me. Stake your heart on mine to places of the times. It's a long way. It's a long way. Un pezzo sognante che parla di Eden, che nomina divinità egizie, di campi, di tramonti, di fate. un disco che appunto vogliamo proporre questa sera perché magari non è molto conosciuta la sua attività solista in confronto invece a quella che insomma sappiamo meno dalla fine degli anni Ottanta, relativa al suo lavoro con gli Smashing Pumpkins. E adesso arriviamo alla seconda data. Chi ci conosce, insomma, chi ci ha ascoltato questi ultimi mesi ha un po' sentito un po' in tutte le salse Sharon Van Etten, l'abbiamo messa come contributo in diverse puntate, non ci stanchiamo mai di ascoltarla e di ascoltare questo disco e di vederla, soprattutto appunto questo disco Remind Me Tomorrow, uscito il 18 gennaio 2019 e finora decimo miglior disco dell'anno, e questo è il bellissimo pezzo d'apertura I Told You Everything. Sesta Unplugged, seconda data, 8 luglio. Sharing a shout you pezzo profondamente commovente. Ho detto tutto, mi sono messa completamente a nudo, ti ho raccontato magari delle cose che non ho raccontato mai a nessuno, in un momento di intimità sorprendente tra lei, Sharon, un pezzo assolutamente autobiografico, e il batterista della sua band ai tempi, e si sono resi conto in realtà di piacersi, e è nato questo amore, questa relazione, poi è nato un figlio, il che ha determinato l'assenza discografica di Sharon per qualche anno. Pezzo con di un bellissimo respiro per un album che è stato coadiuvato da, oddio, mi ricordo, William Congleton, insomma, grande produttore anche di St. Vincent e di molti altri artisti, da ultimo anche Niloufer Yang, su cui abbiamo fatto una trasmissione pochi mesi fa. Eh sì, ha raccontato cose abbastanza pesanti della sua vita. E la reazione è "Holy shit, you almost died". Per un artista che ha sempre raccontato candidamente i suoi dolori fin dall'inizio della sua discografia con Because I Was in Love nel 2009 e dei maltrattamenti subiti da un fidanzato in particolare. Ma adesso siamo sicuri che abbia trovato un equilibrio, una serenità e soprattutto non ha perso la sua vena creativa. Ma adesso passiamo ad una lunghissima traccia che è l'intervista che noi facciamo ogni anno per appunto parlare con chi organizza l'evento. Ecco, siamo in collegamento come ogni anno da qualche anno a questa parte con Daniele Terzariol, event manager, ovvero organizzatore di questo bellissimo evento rassegna, che di cui noi ogni anno parliamo come fan appassionati, perché ogni anno c'è un cartellone che rispecchia anche insomma quelli che sono i gusti musicali di questa trasmissione, e quindi ciao. Siamo al telefono con Daniele, grazie di aver messo a disposizione il tuo sempre risicato tempo, perché sei impegnato su più fronti, e quindi grazie. Niente, figuratevi, è un piacere esserci come ogni anno. Allora, una cosa che mi è venuta in mente, che non ho mai chiesto, è come è nata proprio l'idea di Sexto Unplugged. Ricordiamo che l'edizione di quest'anno è la 14ª dal 2006. Noi abbiamo cominciato ad occuparcene dalla 10ª, che si festeggiò a quei tempi con un grandissimo evento che fu il concerto di St. Vincent, perlomeno per me personalmente, ma penso anche per voi. Mi ricordo che io dicevo che era veramente un colpaccio messo a segno, e quindi appunto come nacque questa idea? Cioè, avete guardato la bellissima piazza, il complesso abbaziale, la torre dell'orologio, gli affreschi, avete detto: qui sarebbe bellissimo mettere un palco? È proprio andata così. Per il 2006 il cartellone portava Carmen Consoli, Michael Lehman, Laura e Quinto Rigo. Se guardiamo quest'anno, insomma, notiamo che qualcosa è cambiato. Sì. Non è cambiato però l'approccio al luogo. E come hai ben detto, è un luogo che evocativo, ci ha suggerito da solo, sostanzialmente il luogo ci ha parlato come fosse un qualcosa di magico, di farci qualcosa in quel cortile abbaziale, perché fosse rimasto solo un cortile abbaziale come tutto il resto dell'anno non sarebbe stato utilizzato al 100%. Sì, sarebbe stato un peccato. Sì, un luogo non dico sprecato, che comunque rientra nel circuito di volontà d'Italia, e ci siamo detti: iniziamo a costruire un percorso anche di musica d'avanguardia che stoni, e questa cosa è stata fatta volontariamente con l'ambiente, ma al contempo lo sposi, insomma, una contraddizione tra musica e luogo, che una contaminazione reciproca, dove il luogo ispira l'artista e lo plasma in qualche modo, e la performance, il repertorio dell'artista si adatta insomma a questo contenitore, a questo scrigno. E come ho scritto nella presentazione, mi piace sempre ricordare il claim che avete scelto per la rassegna, che è: quando il luogo determina la musica. Dici benissimo, assolutamente. Se pensiamo a Sexto Unplugged in un altro posto, in realtà non riusciamo a pensarlo. No. Non è possibile ripetere il medesimo format in altro luogo. Gli stessi artisti in un campo aperto forse non avrebbero la stessa resa. Sicuramente. Magari il concertore sarebbe lì, comunque intimo, perché al massimo il nostro venue ospita 2000 persone, ma forse non avrebbe lo stesso impatto sulle persone. Insomma, c'è un tutt'uno che accresce l'esibizione degli artisti. Immagino che ai tempi ovviamente ci sia stata una disponibilità da parte delle amministrazioni locali, perché appunto c'è questa sinergia molto stretta tra la Proloco proprio del paese e l'associazione dedicata nello specifico alla rassegna musicale estiva, quindi anche una disponibilità, un ascolto, un'amministrazione locale intelligente che non ha pensato che una roba tra virgolette moderna fosse inadatta al posto, ma che invece fosse un'idea vincente. Assolutamente sì, il patrocinio e la collaborazione con le istituzioni, sia a livello locale che regionale, sono il nostro volano. Sexto Unplugged non si traduce solo in un'esperienza di 4 giorni con le 4 date del festival, ma anche in un'opportunità di tipo economico e culturale per tutto il territorio, perché comunque chi viene da fuori viene alla scoperta di un angolo del Friuli che forse non è sempre solcato, conosciuto, e magari un attimo fuori dagli itinerari soliti, no? Poi mi pare che ci siano sempre anche delle convenzioni con le strutture ricettive. Una delle più belle: passa una notte in hotel, tra quelli noi convenzionati, il biglietto del concerto ti viene sostanzialmente regalato. Fantastico. Ma adesso parliamo della musica. Innanzitutto, le date sono 4, sono 2 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 22 luglio, e partiamo proprio con il botto, con uno dei nomi più famosi della scena alternativa e poi anche mainstream, anche perché calca le scene dalla fine degli anni Ottanta. Praticamente parliamo di Billy Corgan, leader voce dei Smashing Pumpkins, ma che ha anche tutta una serie di attività e anche due album solisti a suo nome, anzi William Patrick Corgan. Come vi è venuto in mente, cioè più che altro mi chiedo, è stato difficile raggiungere un nome così? Festival, però ce l'abbiamo fatta e siamo molto soddisfatti della line-up. Billy Corgan è stato tra l'altro anche il primo nome che abbiamo chiuso ed è anche quello che apre il festival, come hai ben detto, il 2 luglio. Come ogni anno la nostra scelta avviene mettendoci attorno a un tavolo già dai primi mesi successivi alla chiusura della precedente edizione. Si trova in ottobre-novembre e si iniziano a mettere giù le carte su quelli che sono gli artisti che ci piacciono, sui dischi che ci siamo ascoltati durante l'anno e su chi vorremmo portare a Sest Unplugged l'anno successivo. Vi ricordo, era un nostro vecchio pallino, porta in giro quest'anno un format un po' diverso, oltre alla data con gli Smashing Pumpkins, sì, che sarà a Milano Firenze con un sold out da 14.000 persone, passerà da noi con le sue canzoni soliste, ma anche e soprattutto con il repertorio degli Smashing Pumpkins, per cui chi si aspetta i grandi classici degli Smashing reinterpretati in chiave diversa, perché saranno i due sul palco, sarà completamente soddisfatto. Poi quindi nell'autunno sapevate già che l'anno successivo, ovvero nel 2019, cioè sarebbe stato il grande ritorno discografico, grande, lo dico io da fan della prima ora, di Sharon Van Etten. Sono un grande fan anche io di Sharon Van Etten, a me era piaciuto tantissimo il suo album ormai di qualche anno fa, With Thea. Adesso è uscito il suo nuovo capitolo, che è Remind Me Tomorrow, un ottimo album che io consiglio, la data è quella dell'8 luglio. Una artista capace, una classica artista da Sex Unplugged, secondo me. È in quel momento della carriera, per cui a Sharon manca veramente poco, secondo me questo è un grande balzo in avanti. Ci scommettiamo e scommettiamo che piacerà al nostro pubblico. Guarda, io appunto sono fan della prima ora, l'ho vista dal vivo ovunque potessi, ed è per questo che ad aprile siamo andate io e dei miei amici a vederla a Berlino, perché abbiamo detto, cavolo, non c'è l'Italia in questo tour europeo, e invece appunto poi abbiamo scoperto che fortunatamente passerà in Italia per più di una data, e l'8 luglio sarà a Sest Unplugged. Esatto. Potremmo parlare delle ore di quella che noi chiamiamo Sharonetta, ma invece sono molto curiosa, perché appunto noi di Might FM sappiamo molto ma non sappiamo tutto, e quindi io non conoscevo Michael Kiwanuka. Parlaci di questo artista. Sound, quello di Michael, ma a noi piace molto la sua voce, questo ancora di più in Sharon, insieme alla data successiva che chiude il cartellone, è un artista Sex Unplugged, che si porterà sul palco la sua chitarra e si ammalierà con la sua voce. Una bella persona, a me ha sempre ispirato Michael Kiwanuka e siamo felici di ospitarlo sul nostro palco. Poi tu ancora non lo sai, ma i miracoli della post-produzione faranno sì che in realtà in questo momento i nostri ascoltatori in sottofondo stanno ascoltando Michael Kiwanuka, perché abbiamo deciso di mettere come tappeto sonoro un suo pezzo di 10 minuti, che è il pezzo di apertura dell'album, e che è stato anche usato come sigla di una serie TV. Sì, lui ha fatto un bel botto ancora qualche tempo fa, se l'era portato in tour. Un artista che noi non vedremo a Sest Unplugged, perché forse non è vicino alla sonorità che è Art Bell. Anche il budget, oserei dire. Assolutamente. Da lì è stato conosciuto molto, ha fatto un balzo in avanti, quindi per noi, tra l'altro, è in data secca italiana. Sì, il 9. In data secca il 9 di luglio. E poi arriviamo Dulcis in Fundo, una appunto che tu lo sai, anche io che grande fan, è anche un ritorno. È un ritorno, ma sotto le dita spoglie. Sì, anche perché appunto una caratteristica del posto è che poi appunto gli artisti si innamorano e tornano sempre con piacere, come è successo con Patrick Wolf, come è successo con Anna Calvi. Mi ricordo che mi hai detto che si erano proprio innamorati del posto. Degli artisti che si dicono felicissimi del posto, anzi magari all'inizio sono un po' recalcitanti a dire, ma cosa vado a suonare in quel luogo verso l'Italia, poi vedono le foto e dicono forse è il caso di andare. Mir hanno fatto proprio così, ad esempio, qualche anno fa. E hai ragione, c'è un ritorno che è quello di Elena Torra dei Daughters. il 22 luglio ci presenterà il suo debutto solista, un progetto che è acronimo di qualcos'altro, si chiama X-Re, in realtà significa Regarding X, cioè a proposito del mio ex ragazzo, un po' concept album. Sì, diciamo un po' catartico, cioè terapeutico. Sì. E quindi è la torre che torna dopo un po' di anni, perché ormai vado a memoria, i Dota devono essere passati 4 anni ormai dal loro passaggio a Septum Live. Forse ma 3 anni possono fa. Correggere i nostri ascoltatori, no. I nostri ascoltatori andandoci a vedere. Ma ci possono correggere a noi, certo. Andate sul sito sextumplugged.com, giusto? Esatto, sì, è un invito per mandarli a contare. E anche la pagina Facebook dove troverete tutte le informazioni. Sul sito potrete vedere appunto precedenti edizioni, i cartelloni illustri degli anni scorsi, e poi appunto sempre i bei trailer e la grafica curata sempre da lui, vero? Curata sempre dal nostro Wally, fatto Wally Thomas, sì. Wally, e quest'anno gli avevo commissionato un lavoro che riguarda la nostra mascotte, perché se fa un è vero, si paga più di una, è un pavone, sì, più di una, è un pavone che aleggia nella nostra piazza anche durante le sì, sì, io ho dei video, mi ricordo benissimo, all'inizio di Dillon, che avevo fatto tipo un concerto, anche il pavone. Eh sì, abbiamo questa figura mitologica, io la chiamo ormai così, che è stata celebrata. Mille occhi. È bellissimo il trailer, lo potete vedere sia sul nostro sito che è sextumplugged.com, pure sulla pagina Facebook, così come sul canale Instagram. Seguiteci, perché teniamo anche informati su come vanno i biglietti, perché lì Corgan, la venue non è molto grande, chi vuole venire a vederselo è il caso che tenga monitorata la situazione. E quindi di attrezzarsi per tempo. Bene, quindi adesso noi proseguiremo con questa puntata speciale come ogni anno, ascoltando e parlando e facendo appunto sedimentare, e speriamo appunto crescere e fiorire il desiderio di vedere questi artisti per la musica che fanno, ma soprattutto per il contesto in cui caleranno la loro musica, ovvero la bellissima piazza Castello del complesso abbaziale di Sesta Regena, provincia di Pordenone. Io mi prendo solo il tempo per ringraziare te di nuovo, ma soprattutto tutte le persone che lavorano su Sesta Plug, perché io sono quello che fa le interviste e dà una mano a selezionare gli artisti, ma c'è dietro un lavoro di tantissime persone, Mauro, Fabio, non li vedete, non li sentite, ma senza di loro questo festival non campa, perché è un festival basato sulla volontarietà delle persone, su un borgo che si riattiva ogni anno. Grazie mille e ci vediamo a Sexton Plant quando il luogo determina la musica. Ciao Daniele. Ciao ciao. Ed è proprio X-Re, Elena Torra, che stiamo ascoltando. Guarda caso, si finisce il pezzo di Kiwanuka, si finisce di parlare di Kiwanuka e inizia il discorso su X-Re e inizia questa sua Crushing, tratta da questo album omonimo. Non si sa se sarà un esperimento singolo, perché appunto un album a tema, cioè X-Re in realtà è un gioco di parole, regarding X come nelle mail, per dichiarare l'oggetto si scrive re due punti, come una lettera chiusa scritta a se stessa di catarsi terapeutica per sfogare tutto quello che riguarda una storia finita molto male, evidentemente. Il ritornello dice: credo che il livello di attenzione, il periodo di attenzione, l'attention span, stia diminuendo sempre di più a causa dell'uso degli umani delle macchine, dell'uso delle macchine per mostrare i loro sentimenti. Ma siamo tornati a Billy Corgan, un pezzo di questo album, sempre Oggi Lala, che è stato il primo che ho conosciuto e mi è piaciuto davvero molto subito, si chiama Aeronaut. Look outside, the air's alive. Call it ether, elemental, dark nights. One magic heart deceives. One little mind to ease up. One silver drum that beats. this mountain's gone from us. This mountain's gone from us. If I'm leaving you without return, a snap and a bolt through time and space. You can come. Won't you mourn with me? Love, won't you mourn with me? Love, won't you mourn with me? Fall across the middle, the world survives. Look outside, the air's alive. Una bellissima ballata, secondo me, per un album che fu prodotto da Rick Rubin con un approccio minimalista, tutti pezzi acustici, chitarra acustica, pianoforte, archi o synth che riproducono il suono degli archi, per un disco in cui Corgan, famoso per essere, per avere un caratteraccio e essere un control freak, ha lasciato invece il controllo nelle mani di Rick Rubin. Se vogliamo dare altri dati biografici che magari qualcuno non sa di Billy Corgan, è del 67. I Smashing Pumpkins nascono dalla conoscenza con James Iha a Chicago nell'88, poi si aggiunge la bassista Darcy Wretzky e il batterista Jimmy Chamberlin. Dopo c'è stato il breakup ufficiale nel 2000, poi un nuovo progetto di una nuova band, sempre con Jimmy Chamberlin, con cui ha un rapporto malatissimo di amore e odio. Lui lo caccia dalla band, poi torna quando c'è stata quella cosa, quel incidente, insomma, della morte per uso di eroina, insieme a Jimmy Chamberlin, del tastierista che era in tour con loro, quindi poi venne cacciato, poi richiamato. E infatti ancora l'amicizia ancora regge per le continue riformazioni e reunion dei Smashing Pumpkins che continuano a riunirsi, sempre Smashing Pumpkins in continuazione, e infatti suoneranno, come ha detto Daniele, a Firenze, e però invece lui con questo duo acustico suonerà prima della data di Sest Unplugged anche a Spilla Fest ad Ancona il 30 giugno e il 28 giugno a Gardone Riviera per il Tener a Mente Festival, uno di quegli esempi di nomi veramente tristi. No One's Easy to Love, secondo pezzo di Remind Me Tomorrow. Siamo tornati alla data dell'8 luglio e Sharon Van Etten. Adesso dirò solo i numeri perché si sa che ho dei problemi a dire la GL. Ecco, poi mi è venuto in mente John Congleton per quest'album che incorpora molti synth, molti suoni elettronici, registri diversi da quello, insomma, di indie, folk, rock, classicone a cui ci aveva abituate Sharon, ma senza appunto snaturarsi. una canzone che parla appunto dei passati amori andata a male, di questo che si ripresenta alla sua porta dicendo insomma ti amo così tanto, quindi come una specie di richiesta di perdono. Invece lei insomma è un po' andata oltre, non le interessa più, e in qualche modo insomma non è che lo giustifica, però insomma dice nessuno è facile da amare, oppure giustifica tra virgolette se stessa. E c'è questo verso che dice: mi avevi fatto una domanda una volta, tuo padre è un uomo? Lei risponde no, ma penso che anche tu dovresti farti la stessa domanda. Pezzo che sonicamente, siamo d'accordo, ricorda un po' i Beach House per questa tastierina di sottofondo. E insomma, chi ci segue sa che abbiamo parlato tante, abbiamo ascoltato tante volte Sharon Van Etten fin dall'inizio del 2011, quando dedicammo metà puntata a lei e metà alle Warpaint. A quel tempo aveva solo pubblicato Because I Was In Love e Epic EP. E che non sarà assolutamente l'ultima volta che la sentiremo con i pezzi di questo disco, perché ci occuperemo anche di un altro evento e di un'altra data di Sharon in Italia, noi che andiamo a vederla in tutta Europa. E siamo appunto tornati al 9, alla data del 9, il mese lo sapete già, è appunto Michael Kiwanuka. In sottofondo, durante l'intervista con Daniele, ho scelto di mettere il lungo pezzo di 10 minuti che apre il suo secondo album. We've been through it all. Can't believe it's over now. Il pezzo era Cold Little Heart, e la serie TV per cui è stato usato questo pezzo come sigla iniziale era Big Little Lies. On my own, all my hope is gone. E questo è sempre un altro pezzo dello stesso album, che è appunto il secondo album a sua firma, Love and Hate, uscito nel 2016. Ci aspettiamo che arrivi qualcos'altro, quindi. E si chiama Falling. We're falling. giusto o sbagliato le abbiamo passate tutte, non posso crederci che adesso sia finita. Tutta la mia speranza è andata a fondo le ginocchia nel terreno. Non so perché sono rimasto così a lungo, sapevo, sempre saputo che mi avresti deluso o abbandonato. Sono un uomo che deve stare da solo. E adesso mi dici che mi vuoi, ma lasciami andare. Lascia in pace la mia testa, guarda quello che mi hai fatto. Michael Kiwanuka, inglese, londinese, e fa parte appunto di questa nuova scena di cantanti che riscoprono il soul classico. È anche uno stile musicale un po' vicino allo stile orchestrale alla Morricone, anche appunto se riascoltate con Little Heart l'intro è molto molto air, quindi anche suono un po' retro, ma siamo ritornate a ex-re, ovvero Elena Tonra, l'abbiamo detto, voce e leader dei Daughter. It was a drunken stutter. E questo è stato il primo pezzo che è stato reso pubblico di questo progetto solista, in questo disco che è uscito a novembre per la Glassnote sussidiaria della 4AD. I was uncomfortable, I was hurt still with blue innocence in his eyes. I felt my reasoning was harsh. With every stab wound and exhale I promised myself that I would never lose my useful fears. If grown-up men, I'm scarred with cruel intentions. I thought of another the whole time. Who would have never stared me like that? He saw me as a human. This one thinks I'm a slaughterhouse. He pretends that he Romance, il racconto di una notte in cui lei dice: c'è stata un'intimità fredda, io volevo trovare qualcosa in qualcuno ma semplicemente non c'era. E può semplicemente essere uno sguardo che ti fa sentire a disagio, ti fa decidere di, insomma, non stare più bene, di voler andare. E questo pulsare di sottofondo che cerca di riprodurre anche l'atmosfera del nightclub, di una nottata. I could begin to open up and risk desire for I'll move slower and quieter than most. I grew up too quick and I still forgive too slow. E il ritornello dice semplicemente che il romanticismo è bello che è morto e ti colpisce in mezzo agli occhi e l'erba è morta e arida e fa male tra le mie cosce. Dicevamo, una lettera scritta a se stessa, e appunto se magari adesso si è sfogata ed è stato appunto catartico e terapeutico, magari vabbè sì, anche il nome, visto che non è Re Ex ma Ex Re, potrà rimanere. Ci saranno altri progetti solisti per Elena? Ci sarebbe, ci piacerebbe poterglielo chiedere. E siccome non possiamo chiederglielo, abbiamo trovato un articolo di sentirascoltare.com in cui lei parla di questo disco, che è stato appunto pubblicato, no, per la Glassnote, la sussidiaria americana per la 4AD, e che è uscito appunto senza tanti preavvisi. Tanto è vero che una cosa veramente molto curiosa che ho trovato è che sul sito Metacritic, che raccoglie tutte le recensioni della critica specializzata, per esempio di questo disco, che ha ottenuto come media un 7.3, ci sono solo 6 recensioni, quando per esempio l'ultimo disco dei Daughter ne aveva ricevute 26, di quelle insomma dei media più importanti angloamericani, che vengono sempre considerati da questa testata. Quindi il giornalista la incontra. Ci aspettavamo di trovare una ragazza avvolta nel suo dolore, resti a parlarne, beh vabbè, se ci fai un discorso proprio magari vai a fare anche un tour promozionale, forse un po' sei un po' superato, o perlomeno ti esponi, sei pronta assolutamente, hai la volontà di parlarne. E racconta appunto il suo vissuto con una dose di ironia. Ex-Re è una sorta di alter ego, un'altra me che riconosco ma che sento che non mi appartiene già più, appunto. Fortunatamente quella Elena è già distante da quella che sono oggi. Non potevo dare il mio nome a una raccolta di canzoni del genere. È uno pseudonimo che ho scelto perché lo puoi leggere in diversi modi. Può significare Regarding Ex, o puoi leggerlo come Ex-Ray, perché questo disco è una radiografia raggi X sull'accaduto, su quello che ho passato, per cercare di capire qualcosa in più. Il Ray invece sta anche per Replay, come quando si risponde ad una mail, ovvero il modo di comunicare con qualcuno dal quale sei molto distante. È il distacco che senti mentre parli di una persona alla quale in passato eri molto vicino. E finisce Romance. Rifacciamo il giro, torniamo al 2 con un altro pezzo di Oji Lala. Si chiama Half Life of an Autodidact. Is love for a brackish gold, protected like a lilac cone. He comes by the breath of the sun, denuded and diffused again. The wildy winds, oh, sighed, so subsumed, pervade his blade by room. Whoever lapses into ruin and regret, Juliet. Oh, I can't crease, I get tired, I just get tired. Flood to lease, no bless, oh, bleach. Bounce to us, I just got tired along the flame. Years to finally wake up, and 9 more to sling the snakes out of you. Richly pink, that steel tone flam, a flint of luck, miscast my chance. Is one does after days, thrown dance, triumph after triumph. Anche questo un pezzo molto aggraziato. What's the chant as fire and the moon? Il primo disco a a suo nome era The Future Embrace, scritto con le maiuscole delle parole, però tutto attaccato, uscito nel 2005, poi nel 2017 questo Oggi La La. Ma come mi succede spesso, io poi mi perdo a leggere le schede di Wikipedia dei personaggi, che vabbè già li conosci, però poi leggendo le schede di Wikipedia scopri delle robe incredibili. Vabbè, ovviamente i grandi fan dei Smashing Pumpkins lo sapranno, noi eravamo grandi fan quando eravamo giovani, insomma su quella ventina, venticinquina d'anni. Anche se devo dire che ho anche comprato il disco degli Zwan, quindi ne avevo già oltre 30. Appunto, ho scoperto che è un grande fan di wrestling. È che una volta ha incontrato un altro lottatore, Lou E. Dangerously, e gli ha mentre sfasciato una chitarra in testa, così, perché l'aveva insultato. Talmente appassionato di wrestling che si è comprato una delle varie leghe che fanno i vari campionati, con tutti i titoli, con tutte le cinture, con tutti, insomma, il loro gruppo di lottatori, immagino. Ma siamo tornate alla bellissima, sì, anche lei come persona, anche come donna, insomma, bella donna, Sharon Van Etten. E questo pezzo che, appunto, noi con le nostre amiche ridiamo sempre, perché sembra l'inizio proprio di Non sono la signora, un volo a planare, se lo si canta. E invece è uno dei pezzi più forti e anche più demanding, cioè che richiedono fatica anche nell'esecuzione live, perché c'è un pezzo che è veramente urlato, e purtroppo quando l'abbiamo vista a Berlino era nell'angolo opposto di dove eravamo noi del palco. Appunto, che anche questo, insomma, è una canzone scritta a se stessa, che ricorda di quando aveva 17 anni, ma in realtà è una canzone d'amore dedicata a New York, la città comunque dove lei stava a quell'età, dove era sola, aveva lasciato insomma la sua famiglia prima poi di trasferirsi a Nashville, iniziare a fare musica. I used to be free, I used to be 17. Tra l'altro, quando appunto ha cantato I Used to Be 17, mi ha guardato negli occhi e ci siamo sorrise. A noi fanno queste cose, sono importantissime. Che arriva il momento dell'urlo. Bellissimo, meraviglioso, tra l'altro ha una band spettacolare che l'accompagna dal vivo, il batterista non è più il suo compagno, è un altro batterista. poi c'è la sua compagna Heather Woods Broderick alla tastiera, alla doppia voce, imprescindibile. Qui c'è questo impazzimento di synth. Siamo tornati al giorno 9, Michael Kiwanuka con la title track del suo album, ovvero Love and Hate. Dicevamo, questo è il secondo disco, perché il suo debutto è stato nel 2012 con l'album Home Again, che è diventato disco d'oro nel Regno Unito. E poi questo seguito, Love and Hate, è stato nominato ai Brit Awards, agli MTV Europe Music Awards, al Mercury Prize, al BBC Music Awards. Figlio di genitori ugandesi che sono sfuggiti al regime dittatoriale di Amin, cosa che io ho studiato all'università. Come uno dei pezzi di questo disco. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame. Tra l'altro questo album è stato prodotto da Danger Mouse, quindi, che appunto dice: io ho sentito il suo primo disco e ero molto curioso di quello che sarebbe venuto fuori se avessi lavorato con lui. Ovviamente le sue influenze dichiarate sono di Jimi Hendrix, Bill Withers, Otis Redding, ovviamente era per quello, Joni Mitchell, Bob Dylan, il Wham, fantastico, e Funkadelic. Una musica che funziona anche molto nelle serie TV, perché oltre al primo pezzo del disco usato per Big Little Lies, anche la serie 7 Seconds di Netflix ha usato proprio questa canzone. nella prima e poi anche altre serie, The Get Down, nella serie Animal Kingdom, insomma pezzi di questo disco, il primo disco, un po' sparsi ovunque, anche in altre due serie. Siamo tornate a X-Ray con un pezzo dal titolo abbastanza inequivoco, ovvero Bugiardo, Liar. Forse però non l'ho ripetuto abbastanza, che X-Ray, ovvero Elena Torra, ovvero la voce dei Daughter, si esibirà sul palco di Sexton Unplugged il 22 luglio. Ma come abbiamo ripetuto un paio di volte anche nell'intervista con Daniele Terzariolla, potete trovare tutte le informazioni su sextonplugged.com o sulla pagina Facebook e poi, come ha detto anche Daniele, sul loro profilo Instagram. Sicuramente un disco dove si è sentita libera di sperimentare, anche perché avrebbe anche molto avuto senso fare insomma una copia dei Daughter. In cui sì, quest'altra persona è anche un'ombra indistinta, anzi forse è più lo spazio senza quella persona, quello di cui parla Elena. Descrivo situazioni e percezioni della sua assenza nel presente. Questo perché ho un grande rispetto per una persona che stimo e per la quale ho provato dei forti sentimenti, anche se magari era un bugiardo. Ho semplicemente cavalcato un'onda emotiva che doveva in qualche modo fluire. Come delle lettere che non appartengono più al momento in cui le ho scritte, per questo non c'è alcun risentimento. E infatti, guarda caso, questa intervista di Sentire Ascoltare dice perché comunque di rabbia ce n'è in pezzi come Liar, una certa furia si fa sentire, ma Elena la indirizza più verso se stessa. Mi sono sentita smarrita, se non proprio persa, bevevo anche troppo, mi faceva schifo la mia faccia. Turno, l'ultimo turno per William Patrick Corgan, detto Billy, con un altro pezzo tratto da Ojilala, ovvero Mandarinne, scritto con la Y e la doppia N. Si sa che lui ha avuto sempre un po' l'amore per questi titoli molto esotici e abbiamo appunto fatto la scelta deliberata di non mettere nessun pezzo dei Smashing Pumpkins, sarebbe stato veramente superfluo. E poi comunque, come ci ha detto Daniele, dal vivo esibirà, appunto in chiave acustica, anche tanti pezzi di Smashing Pumpkins, quindi penso che sarà molto bello. E capisco anche, guardando i testi, perché questo disco ha avuto un 7, che è dignitoso, di media. Perché oltre a non essere un campione di simpatia, forse anche i più grandi fan lo potranno ammettere, anche i testi diciamo che sono un po' magniloquenti, molto pretenziosi, con dei termini molto difficili, sconosciuti, obsoleti, che appunto più che suggerire delle immagini, raccontare una storia, sembra appunto un po' uno sfoggio fino a se stesso. Però la musica, perché ovviamente la musica la sa scrivere, questo gliene diamo atto noi che ce ne intendiamo. E poi anche dopo tante relazioni interpersonali, sentimentali finita male, tra cui anche quella con Courtney Love, perché non si capisce molto bene, sembra che c'è solo andato a vivere insieme con Courtney e Frances Bean. Però dopo appunto si capisce che io, perché non ne so niente, magari la gente dice è chiaro che hanno avuto una storia, io non lo so per certo, me ne frega fino a un certo punto. Poi è un pescetariano, quindi mangia solo pesce dal 2013, e alla fine però si è accasato con Chloe Mandel, e appunto questo amore, insomma proprio la magniloquenza, si rispecchia anche nei nomi dei suoi due pargoli, un maschio nato nel 2015, Augustus Jupiter, e invece nell'ottobre 2018 la secondogenita Filomena Clementine. E finisce il turno anche di Sciaronetta con un altro dei pezzi più potenti dell'album. Una canzone che parla della capacità di perdonare in una relazione. Le tue mani, tocca il tuo lover, insomma il tuo significant other, il tuo amante, il tuo compagno. Io tengo le mani in alto, non bisogna desiderare di farsi del male. E infatti questo l'ha anche raccontato durante un concerto a febbraio, dove ha raccontato, ho scritto questa canzone dopo aver litigato con mio partner. Era proprio una roba domestica della serie: ah, non hai piegato il bucato o qualcosa del genere. E quindi c'è questa canzone che riguarda il perdonare, la serie non incazziamoci per le stronzate che uno dovrebbe inciderselo sulla pelle. It's too late to run away. just float away in our parade of love and pain. Away we go, away we go. E siamo arrivati all'ultimo giro per Michael Kiwanuka, è il pezzo finale del suo bellissimo disco Love and Hate e guarda caso si chiama The Final Frame. Una cosa che avrei sempre voluto dire anche tutte le volte che ho messo la musica Sharon Van Etten, ma ho ancora tempo perché ne parleremo ancora, è che magari la gente non lo sa, nel senso chi non la conosce come musicista, come le è successo del suo tipo che gestisce la palestra dove lei va, o uno che frequenta la palestra, insomma, dove va lei, che l'ha riconosciuta come una delle attrici di DOA, nel senso appunto fa il ruolo di Rachel, che infatti parla pochissimo ma è molto molto espressiva nella prima serie, canta anche nella seconda serie, è molto molto espressiva, ma non diciamo, non facciamo spoiler per chi non l'ha ancora vista. Tra l'altro una serie che ha anche una componente musicale molto importante, essendo stata creata da Britt Marling, quella pazza, con un altro pazzo che è Zalbat Mangli, che è il fratello di Rostam, dei ex Vampire Weekend, che ha curato anche appunto la musica della serie. Ma noi stiamo ascoltando Michael Kiwanuka, The Final Frame. Away we go, away we go. Super classico, molto molto bello. Non c'è un album nuovo, però c'è un featuring, Michael Kiwanuka appare su un pezzo degli Uncle, On My Knees, che è stato ispirato da e è presente in Roma, il Cuarón, multi premiato. E ultimo giro anche per X-Ray, con un pezzo che comunque anche in altri pezzi suona molto, mi richiama molto Cat Power. Questo molto molto di più. Questa cascata di accordi che invece adesso noto mi ricorda molto Dear Prudence dei Beatles, anche se io sono più affezionata alla versione di Siouxsie. Good. la voce non suonasse un po' più, cioè il timbro un po' più alto, cioè un po' più fresca, potrei prenderlo per un pezzo della Gatta Potere. Canzoni che sono state lettere che ha scritto per se stessa, anche se erano indirizzate ad altri, non sono state spedite, ma appunto c'è stata quest'urgenza di trasformarle in canzoni per poter sfogare un dolore che ha provato a soffocare per molto tempo perché non voleva accettarlo. Poi alla fine anche pensava che queste canzoni, poi alla fine sono nate, potessero entrare in un disco dei Daughter, poi appunto si è rivelato una cosa veramente troppo personale. E poi le sessioni sono state brevissime, mentre invece la fase di scrittura è durata molti mesi, in luoghi e momenti diversi, con una costante, l'ambientazione notturna, con una città a fare da sfondo permeata dalla solitudine moderna e urbana di un quadro di Edward Hopper. Se volete vederla sul palco, non so in che formazione sarà, 22 luglio, Sesto Unplugged. Se invece soffrite, volete farvi particolarmente male, oppure volete ricordare com'è sentire qualcosa, vi consiglio anche l'ascolto del pezzo di chiusura di tutto l'album, ma del pezzo di chiusura di questo disco, My Heart. Ciao da Claudia Mighty Mau, questo era il cartellone di Sesto Unplugged 2019 e questo era Mighty FM. Ciao.